Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, tento una lettura laterale del problema della scuola, di cui conosco marginalmente gli aspetti, che evidenzia una tendenza poco rassicurante. Il trasferimento agli individui delle responsabilità dello Stato, di cui scuola, sanità, pensioni sono un esempio, va bene ed è economicamente accettabile in un regime fiscale ragionevole, che lasci disponibilità alle famiglie per gestire il cambiamento. Ma se la pressione non diminuisce e gli individui sono chiamati a compiti nuovi, la società si impoverisce, smette di risparmiare e di consumare. L'economia si ferma. Così uno Stato che raccoglie soldi solo per mantenere se stesso distribuisce miseria, non ricchezza. Non crea posti di lavoro, alimenta l'inflazione, si indebita, facilita l'esodo di capitale umano. Non credo sia questo il compito che gli abbiamo affidato, a prescindere da chi ci governa. Educazione, salute e anzianità sono settori in prima linea, la base del progresso. Vanno investiti pesantemente. Non posso pensare che un governatore ne trasferisca il peso senza aver programmato e condiviso economicamente un sistema di accoglienza privata che non li deprima. È un suicidio sociale. Ma è proprio questo disegno che non vedo, e temo non ci sia. Se è così, fan bene gli studenti a occupare le facoltà, perché difendono un reddito distribuito sotto forma di cultura che non potrebbero avere altrimenti. Oggi nelle scuole, domani negli ospedali o negli ospizi. Per toglierci servizi fondamentali, lo Stato deve metterci in condizione di potervi provvedere da soli. Per toglierli e basta, non serve uno statista. Cordiali saluti, Gianfranco, Milano. Lasciando a chiunque la possibilità di esprimere la propria opinione su quanto detto dal Presidente del Consiglio, non mi risulta che alcun esponente dell'opposizione abbia espresso la minima condanna sulle varie occupazioni di aule e istituti, oppure occupazioni di binari, che non rientrano certo nelle libertà di manifestare e che di fatto privano chi non è d'accordo nel modo o nel merito del diritto di studiare, lavorare o quant'altro. Forse in questo paese la legalità è, come sempre, relativa. Cosimo. Penso che l'attuale governo abbia sbagliato nel metodo e nel contenuto. Nel metodo, in quanto tutto è stato fatto senza ascoltare le parti in causa. Non un incontro, niente di niente. Ha agito da solo, poteva farlo e aveva il diritto di farlo, ma dopo aver ascoltato le parti in causa. Anche il Parlamento non ha esitato a bloccare qualsiasi discussione, anche contingentata. Ha usato il decreto legge con la fiducia. Il contenuto poi non è dei migliori. Ha inserito nel pentolone tutto e il contrario di tutto. Provvedimenti per ogni scuola di ordine e grado, comprese le università. Tutti con problematiche diverse e quindi non apparentabili. In aggiunta a ciò manca anche un disegno strategico, un'idea di come si vuole riformare la scuola pubblica. In questi decreti da leggere insieme manca una visione di fondo, a meno che questa sia quella di passare ad una scuola completamente privata. I miei figli hanno sempre portato il grembiule. Nelle scuole superiori dove insegno hanno sempre fatto corsi di italiano per stranieri, eccetera. Questa è un'operazione contabile senza possibilità di punire gli sprechi dove ci sono e di premiare chi ha il merito. Non è neanche opportuno da parte del governo fare dichiarazioni tipo quelle che ho sentito in questi giorni. Le persone non sono fesse e non sono ignoranti. Sanno benissimo fare i conti con i propri soldi e i propri affari. Non sono tutti comunisti protestatari e nonostante la televisione ci propini un'informazione distorta che ridicolizza i manifestanti e i motivi della protesta, la gente sa riflettere e giudicare. Da un governo liberale che regala soldi a Catania, a Roma fa pagare i contribuenti la privatizzazione di Alitalia e non potrà diminuire le imposte sino al 2013, così è stato confermato da Tremonti, ci si aspetta un aiuto alle famiglie come un aumento del reddito reale e non un ulteriore aggravio per spese della scuola che dovremmo sostenere. Roberto, Genova. Cara Radio 24, mi chiamo Nicola e sono un ex elettore di centrosinistra. Sono estremamente deluso dalla sinistra italiana, e in particolare dal PD. Ma che cos'è il PD? E soprattutto cosa ha fatto il PD nella vecchia legislatura? Nella vecchia legislatura era la Margherita e i DS tenuti insieme da un'armata Brancaleone nostalgica e pazzesca. La cosa che mi ha più sorpreso e mi ha fatto male è stato l'aumento indiscriminato di tasse e balzelli che ha colpito la classe medio-bassa, già impoverita dalla crisi economica. Ho una piccola azienda e sono stato colpito da nuove forme di burocrazia, gli assegni non trasferibili, per esempio, e un aumento delle imposte in maniera esagerata. Mi ha offeso la mancanza di correttezza da parte di Veltroni in campagna elettorale. L'Italia si è rialzata? Ma dove? L'eroe è stato Prodi, che fino all'ultimo non si fece vedere in campagna elettorale. Vogliamo parlare poi del buco lasciato da Veltroni a Roma? La sinistra mi ha deluso e scoraggiato. Ebbene, sì, cari nuovi compagni del Loft, sappiate che io, Nicola, ho votato per la Lega Nord e credetemi che continuerò a votarla. Nicola, da Treviso. Basta prendere le foto delle proteste studentesche del 68, 78, 88, 98 e quelle di questi giorni e cercarvi delle differenze. Io non le trovo. Mi vengono in mente due pensieri. Il primo è per i nostri studenti presunti giovani. Siate indipendenti nei sogni, nei valori, nelle azioni e soprattutto nell'impegno verso la valorizzazione delle proprie capacità, unica vera risposta contro ogni crisi economica e sociale. Ma purtroppo per il quinto decennio successivo state buttando l'ennesima occasione di essere i protagonisti della rinascita di un popolo. Perché è una follia guardare il mondo di oggi con i vecchi occhiali in celluloide nera del 68. Vi dico solo di gettare uno sguardo in avanti, verso una nuova società, ma con uno spirito indipendente, che non può essere che il vostro, quello autentico e non tramandato. Perché questa società ha preso una brutta piega. Il secondo pensiero va alla regia che sta sotto questi 40 anni di nostalgia, perché non è un caso che le foto siano rimaste sempre le stesse. Lasciate in pace i giovani del 2008. Nessun vecchio maestro, se è una persona onesta, potrà dare consigli. Il vostro 68 lo avete già vissuto, ed è troppo facile e da vigliacchi soffiare sulla scintilla innata dell'ardore giovanile, tecnica che conoscete ormai benissimo. Ma purtroppo questa forma di pensiero superiore, che deve sopravvivere comunque e per sempre, vi acceca per l'ennesimo decennio successivo. Ma non è arrivato il momento di buttarvi questo virus alle spalle. Siete quasi tutti a cavallo dell'età della pensione. Non vi sentite un po' ridicoli? Perché non riflettete sul fatto che dopo 40 anni di lotta non siete riusciti a migliorare niente? E l'Italia di oggi, che è la peggiore Italia di sempre, è anche il frutto delle vostre illusioni. Sono un vecchio di 36 anni e l'unica cosa certa è che la mia pensione non arriverà mai, mentre gli attuali 68-tini sono nella maggioranza dei casi dei baby pensionati. Giovani del 2008, siamo messi male. Michele, provincia di Chieti. Ma perché quando il centro-sinistra è al governo, le maestranze delle scuole, del pubblico impiego, non fanno manifestazioni di piazza o comunque non creano queste sommosse? Mentre quando il centrodestra è al governo succede di tutto e di più. Sommosse, studenti in piazza, manifestazioni spettacolari, fannulloni universitari che tentano di entrare in una manifestazione senza pagare il biglietto d'ingresso. Che significa? Che la lotta proletaria si sveglia solo quando restano a casa i sinistri? Roberto, Latina. Se la matematica non è un'opinione, le maggiori manifestazioni degli ultimi anni hanno permesso di stabilire veri e propri Guinness dei primati, sia che si tratti di compressione dei corpi o di confusione di organizzatori e organi di informazione. 2007, Family Day, con 1 milione di manifestanti in San Giovanni, ovvero più di 14 esseri umani per metro quadro. 2003, manifestazione della CGIL al Circo Massimo, con 3 milioni di manifestanti, ovvero ben 25 persone al metro quadro. 2006, record di tutti i tempi, manifestazione della CDL a San Giovanni, con 2 milioni di manifestanti, cioè 28 persone e mezza per ogni metro quadro. Non avendo mai visto piramidi umane, a parte qualche bambino in spalla al papà, credo che si debba parlare di avvenuta compenetrazione dei corpi, ovvero di veri e propri miracoli, a riprova che Dio non è né di destra né di sinistra. Andrea. Gli abitanti di Milano sono 1.256.211. Può essere credibile che una pur grande piazza di Roma possa contenere due volte tutti i cittadini di Milano? Lettera firmata. La mia sarà un'idea fissa, ma senza una significativa riduzione del costo del denaro e una profonda revisione o riduzione della pressione fiscale, il mercato di borsa non ha possibilità di ripresa. Non vi nascondo che l'attuale situazione economica mi dà molta apprensione. Non tanto per me, che sono vecchio, ma per mio figlio. Perché se è vero che finché ci sono le bombe atomiche, i nostri governi non possono, come in passato, mandarci a morire in una guerra mondiale. Una possibile recessione o carestia potrebbe portare a pericolosi e incontrollabili movimenti di piazza. Pancia piena non fa le barricate, ma nessuno vuole volontariamente rinunciare a qualche cosa. Ferdinando. Caro Ferdinando, lei pone un problema che gli economisti hanno dibattuto molto a lungo, dividendosi in schieramenti contrapposti e restando il più delle volte con la stessa idea di partenza. Le due scuole di pensiero si dividono sul fatto se per lo sviluppo economico sia meglio favorire la domanda o favorire l'offerta. Favorire la domanda vuol dire far sì che i consumatori abbiano più soldi da spendere, aumentando salari e stipendi e diminuendo le tasse sui redditi. Favorire l'offerta, invece, vuol dire aiutare le imprese a produrre a costi minori, migliorando la competitività e aiutando in questo modo anche un aumento dell'occupazione, almeno indirettamente a medio termine anche un miglioramento dei salari. Se questa è la teoria, che cosa è meglio per l'Italia? Ebbene, bisogna tener conto che le nostre imprese non vendono solo in Italia ma anche all'estero e che nello stesso tempo i consumatori non acquistano solo prodotti italiani ma anche in qualche caso soprattutto prodotti esteri. Ogni 100 automobili vendute in Italia, per esempio, quasi 70 sono di marca straniera. Che cosa avviene allora? Avviene che incentivando solo la domanda, i benefici vanno certamente ai consumatori, ma solo in parte alle imprese in Italia. Aiutando l'offerta, invece, si aiutano le imprese italiane che vendono all'estero e sono molte, anzi la maggioranza. E migliorando le possibilità operative delle imprese, si potrebbero creare le premesse per un aumento dell'occupazione e dei salari. Comunque, anche di fronte a queste ipotesi non bisogna essere manichei. Entrambe le strade hanno i loro vantaggi e quindi con equilibrio andrebbero seguite. In Italia, ridurre il peso fiscale sulle famiglie e sulle imprese dovrebbe essere una priorità per qualunque governo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18.30. Continuate a scriverci.